Bene amici, dopo la nostra consueta pausa musicale, che come al solito ricordo a scegliere i brani sono i ragazzi del Clan 05, quindi effettuano ogni volta un'accurata selezione dei testi. Riprendiamo quella che era la descrizione del palmo della mano per effettuare una buona lettura. Io qui ho i miei soliti appunti e qui ho anche purtroppo una cosa che non so, non mi resta altro che spiegarvela, perché qui ho una mappa di come è costituito il palmo della mano. Per la propria lettura. Io vi posso descrivere quello che io vedo attraverso un'accurata descrizione, appunto, e per farvi capire più o meno di cosa sto andando a parlare. E il palmo della mano praticamente è diviso in 9 aree, come vi ho già preannunciato poc'anzi. C'è un monte che è definito Monte di Giove, che si trova praticamente al di sotto del dito indice. Poi c'è il Monte di Saturno, che si trova al di sotto del dito medio. Il monte di Apollo, che è al di sotto, è l'area circostante praticamente al di sotto dell'anulare, l'area di Mercurio, che si trova al di sotto del dito mignolo. Poi c'è il monte di Venere, che si estende praticamente dal di sotto dell'area di Giove, quindi appena sotto il dito indice, e fino a finire praticamente più o meno al polso, all'attaccatura del polso. Quest'area può essere più o meno estesa. È più o meno montuosa o carnosa, appunto, in questo caso a seconda della persona. E poi c'è praticamente l'area della Luna, che è praticamente il monte della Luna è come dire, è affiancato, va ad affiancare direttamente il monte di Venere. Quindi, se il monte di Venere si trova nell'area che va dall'indice al pollice, ed è proprio la curva che vedete, se voi osservate il vostro palmo sinistro, vedete una curva che va a descrivere un'ampia zona che viene dominata prevalentemente dal pollice. A fianco sulla destra c'è invece quella che è l'area della Luna, il monte della Luna. In mezzo c'è una leggera concavità che è definita pianura di Marte. Quest'area è al di sotto del monte di Saturno e di Apollo ed è in mezzo al monte della Luna e al monte di Venere. Va bene? Nel monte di Venere praticamente, sull'area. Subito a nord, quindi nell'area settentrionale del monte di Venere, c'è la pianura di Marte inferiore e sulla sua destra c'è praticamente la pianura di Marte superiore, che si snocciola a partire dal centro. Quindi al centro abbiamo la pianura di Marte, che è questa concavità, e sulla sinistra c'è la pianura di Marte inferiore e sulla destra quella di Marte superiore. Io non so se sono stata molto chiara nel descrivervi come appunto è costruito il palmo della mano. E, niente, comunque adesso vado a descrivervi più o meno le zone. Io mentre le descrivo più o meno vi ripeto dov'è la collocazione. Parto praticamente dal fatto sul perché le chiamiamo monti. Sono dette monti perché presentano degli innalzamenti carnosi. I monti alla base delle dita sono quelli che vi ho detto prima, che sono Giove, Saturno, Apollo e Mercurio, e sono caratterizzati da qualità di ambizione, saggezza e talento. Quello della Luna, invece, che praticamente vi ho detto che sta subito sulla destra del monte di Venere, cioè avendo di fronte a voi il palmo della mano, avete la zona del pollice, in cui voi vedete che viene circoscritta da una leggera curva, che va a finire quasi fino al polso. Quella è l'area praticamente del monte di Venere. Il monte della Luna invece è di fianco e praticamente simboleggia l'immaginazione. Venere invece rappresenta l'emozione e va ad occupare, ve lo ripeto ancora una volta, la base del pollice. I monti restanti che fiancheggiano il palmo della mano sono Marte inferiore, che rappresenta l'aggressività, e Marte superiore, che invece rappresenta la resistenza. La pianura di Marte nell'incavo della mano rappresenta appunto la resistenza in se stessa. Adesso noi andremo praticamente a studiare nel dettaglio quelle che sono queste aree, cosa simboleggiano e quanto possono essere estese. C'è il Monte di Giove, che praticamente, come vi ho detto, si estende al di sotto dell'indice. Immaginate voi una sorta di quadratino al di sotto dell'indice, quello è il Monte di Giove e rappresenta l'orgoglio, l'ambizione, la capacità di comando e l'onestà. Queste cose, nel momento in cui è particolarmente estesa questa zona, significa che l'onestà, l'ambizione, l'orgoglio vanno a sfociare invece in arroganza. Per descrivere praticamente, per capire quanto si estende questa zona, bisogna vedere da dove parte la curva di del Monte di Venere. Restate con noi perché abbiamo molto da dire.